La febbre malarica. Le more erano ormai mature e nei pomeriggi caldi Laura andava a raccoglierle con mamma. Quei frutti grandi, neri e succosi pendevano dai cespugli di rovi in riva al fiume. Alcuni erano all'ombra degli alberi, altri al sole, ma il sole era così caldo che mamma e Laura rimanevano all'ombra. Era pieno di more. I cervi stavano sdraiati all'ombra del bosco e guardavano mamma e Laura. Tre ghiandaie sfioravano volando le loro cuffie e protestavano perché mamma e Laura raccoglievano le more. I serpenti strisciavano via di corsa e sugli alberi gli scoiattoli si alzavano e chiacchieravano con loro. Ovunque andassero, tra i rovi pungenti, sciami di zanzare si sollevavano ronzando. Le zanzare si ammassavano sulle grosse bacche mature e ne bevevano il succo. Ma non mordevano solo le more, pungevano anche Laura e mamma. Le dita e la bocca di Laura erano macchiate di succo di mora. Il viso, le mani e i piedi nudi erano coperti di graffi e di punture di zanzara. Ed erano cosparse di macchie viola nei punti in cui avevano schiacciato le zanzare. Ma ogni giorno portavano a casa secchi pieni di more e mamma le metteva a essiccare al sole. Ogni giorno mangiavano tutte le more che volevano e durante l'inverno ne avrebbero avute di secche da stufare. Mary non andava quasi mai a raccogliere le more, stava a casa a occuparsi della piccola Carrie perché era la più grande. Durante il giorno c'erano solo uno o due zanzare in casa, ma la notte, se il vento non soffiava forte, entravano sciami di zanzare. Nelle notti senza vento, papà faceva bruciare mucchi di erba umida intorno alla casa e alla stalla. L'erba umida fumava, tenendo lontane le zanzare, ma un bel po' entravano in casa comunque. La sera papà non poteva suonare il violino perché le zanzare lo pungevano in continuazione. Il signor Edwards non veniva più a trovarli dopo cena perché c'erano troppe zanzare in riva al ruscello. Per tutta la notte Pat, Patty, il puledro, il vitello e la mucca agitavano e sbattevano la coda nella stalla e al mattino la fronte di Laura era chiazzata di punture. «Non durerà a lungo», disse papà, «non manca molto all'autunno, i primi venti freddi le sistemeranno». Laura non si sentiva molto bene. Un giorno aveva freddo anche in pieno sole e non riusciva a scaldarsi nemmeno vicino al fuoco. Mamma disse a lei e a Mary di andare fuori a giocare, ma Laura rispose che non ne aveva voglia, era stanca e si sentiva male. Mamma si fermò e le chiese: "Dove ti fa male?" Laura non lo sapeva esattamente, disse: "Non so, ho male alle gambe." "Anche io," disse Mary. Mamma le guardò e disse che sembravano stare bene, ma che doveva esserci qualcosa che non andava, altrimenti non sarebbero state così tranquille. Sollevò la gonna e la sottogonna di Laura per vedere dove aveva male e all'improvviso Laura cominciò a tremare, tremava tanto da battere i denti. Mamma mise la mano sulla guancia di Laura. "Non puoi avere freddo," disse. "Il tuo viso è bollente." Laura aveva voglia di piangere, ma naturalmente non lo fece, solo i bambini piccoli piangevano. "Ho caldo adesso, se mi fa male la schiena." Mamma chiamò papà e lui arrivò. "Chas, guarda le bambine," disse. "Credo che siano malate." "Beh, anche io non mi sento tanto bene," disse papà. "Prima ho caldo, poi ho freddo e ho male dappertutto. È così che vi sentite, bambine? Vi fanno male le ossa?" Mary e Laura risposero che era così. Poi mamma e papà si guardarono a lungo e mamma disse: "Bambine, mettetevi a letto." Era strano mettersi a letto in pieno giorno e Laura aveva così caldo che tutto sembrava oscillare intorno a lei. Si tenne al collo di mamma mentre lei la svestiva e la pregò di dirle cosa c'era che non andava. "Passerà, non preoccuparti," disse mamma allegramente. Laura si trascinò verso il letto e mamma le rimboccò la coperta. Si stava bene nel letto. Mamma le coprì la fronte con la sua mano fresca e morbida e disse: "Dormi adesso." Laura rimase a lungo tra il sonno e la veglia. Strane cose sembravano accadere confusamente. Vedeva papà accovacciarsi davanti al fuoco nel bel mezzo della notte, poi all'improvviso la luce del sole l'accecava e mamma le dava del brodo, imboccandola con un cucchiaio. Qualcosa rimpiccioliva sempre più, fin quasi a scomparire, poi lentamente cresceva fino a diventare enorme. Due voci farfugliavano sempre più in fretta, poi una voce lenta parlava così piano da risultare insopportabile. Non c'erano parole, solo voci. Nel letto accanto a lei, Mary aveva caldo, spingeva via le coperte e Laura urlava perché aveva freddo. Poi all'improvviso era bollente e papà, tremolante, le tendeva una tazza d'acqua. L'acqua colava e le scendeva lungo il collo, la tazza sbatteva contro i suoi denti e lei riusciva a malapena a bere. Poi mamma le rimboccava le coperte e la sua mano era bollente contro la guancia di Laura. Sentiva vagamente papà dire: "Va a letto, Caroline." Mamma rispondeva: "Stai peggio di me, Charles." Laura apriva gli occhi e vedeva la luce del sole. Mary piangeva: "Voglio dell'acqua, voglio dell'acqua, voglio dell'acqua." Jack andava avanti e indietro tra il letto grande e quello piccolo. Papà era sdraiato a terra vicino al letto grande. Jack lo toccava con la zampa e gemeva. Jack afferrò la sua manica con i denti e lo scosse. Papà sollevò la testa e disse: "Devo alzarmi, devo, Caroline, le bambine." Poi la sua testa cadde nuovamente indietro e rimase immobile. Jack guardava in alto, latrando. Laura tentò di alzarsi, ma era troppo stanca. Poi vide il volto di mamma spuntare dal bordo del letto. Mary continuava a piangere, a chiedere acqua. Mamma guardò Mary, poi guardò Laura e le disse, con un fil di voce: "Laura, ce la fai?" "Sì, ma..." disse Laura. Questa volta si alzò dal letto, ma quando provò a mettersi in piedi, il pavimento oscillò e lei cadde. Jack le leccava la faccia, gemendo e tremando, ma rimase fermo quando Laura si aggrappò a lui per mettersi a sedere. Sapeva che avrebbe dovuto prendere dell'acqua perché Mary smettesse di piangere e così fece. Si trascinò sul pavimento fino al secchio. C'era solo un po' d'acqua dentro. Tremava così tanto che afferrare il mestolo fu un'impresa, ma ci riuscì. Prese dell'acqua e si preparò ad attraversare nuovamente il pavimento, che le sembrava immenso. Jack rimase accanto a lei per tutto il tempo. Gli occhi di Mary rimasero chiusi. Le sue mani afferrarono il mestolo e beve tutta l'acqua che conteneva. Poi smise di piangere. Il mestolo cadde a terra e Laura si trascinò sotto le coperte. Ci volle parecchio tempo prima che riuscisse a scaldarsi di nuovo. A volte sentiva Jack piangere, a volte ululava. Lei pensava che fosse un lupo, ma non aveva paura. Stava lì, sdraiata, e lo sentiva ululare. Poi sentiva di nuovo le voci che farfugliavano e quella voce lenta che strascicava le parole. Poi aprì gli occhi e vide una grande faccia nera china su di lei. Era nera come il carbone e lucida. I suoi occhi erano neri e calmi. Il bianco dei denti brillava nella bocca grande e carnosa. Quella faccia sorrideva e una voce profonda disse dolcemente: "Bevi questo, bambina." Un braccio si infilò dietro le sue spalle e una mano nera le avvicinò la tazza alla bocca. Laura beve una sorsata amara e cercò di voltare la testa, ma la tazza la seguì. Quella voce calma disse di nuovo: "Bevilo, ti farà stare meglio." Così Laura mandò giù tutto quel liquido amaro. Quando si alzò, una donna grassa stava attizzando il fuoco. Laura la guardò bene, non era nera, era abbronzata come mamma. "Vorrei dell'acqua, per favore," disse Laura. La donna grassa gliela portò. L'acqua fresca la fece sentire meglio. Guardò Mary, addormentata accanto a lei. Guardò papà e mamma, addormentati nel letto grande. Jack era sdraiato a terra, mezzo addormentato. Laura guardò di nuovo la donna grassa e chiese: "Chi sei?" "Sono la signora Scott," disse la donna sorridendo. "Ecco, ti senti meglio, vero?" "Sì, grazie," disse Laura educatamente. La donna le porse una tazza di brodo di pollo. "Bevilo tutto, da brava," disse. Laura beve fino all'ultima goccia di quel buon brodo. "Ora dormi," disse la signora Scott. "Mi occuperò di tutto io finché non sarete guariti." Il mattino dopo, Laura si sentiva molto meglio e voleva alzarsi, ma la signora Scott le disse di rimanere a letto finché non fosse arrivato il dottore. Laura la guardò mentre puliva la casa e dava la medicina a papà, mamma e Mary. Poi fu il suo turno, aprì la bocca e la signora Scott, con un pezzetto di carta ripiegato su se stesso, le versò quel terribile intruglio sulla lingua. Laura beve acqua e ancora acqua. Poteva mandar giù la medicina, ma il suo sapore amaro non andava giù. Poi arrivò il dottore. Era lui l'uomo nero. Laura non aveva mai visto un uomo nero prima di allora e non riusciva a togliere gli occhi di dosso al dottor Tan. Era talmente nero. Se non le fosse piaciuto così tanto, ne avrebbe avuto paura. Lui le sorrideva con i suoi denti bianchi. Parlava con papà e mamma e la sua risata era allegra e vivace. Avrebbero tutti voluto che si fermasse ancora, ma doveva scappare. La signora Scott disse che tutti i coloni insediati lungo il ruscello avevano la febbre malarica. Non c'erano abbastanza persone sane per occuparsi di tutti i malati e lei era andata di casa in casa lavorando giorno e notte. È un miracolo che siate ancora vivi, disse. Tutti i malati contemporaneamente. Non sapeva cosa sarebbe successo se il dottor Tan non li avesse trovati. Il dottor Tan era il dottore degli indiani. Stava andando a Independence quando era passato davanti alla loro casa. Era strano che Jack, che non amava gli sconosciuti e non lasciava che nessuno si avvicinasse senza il permesso di papà o mamma, fosse andato dal dottor Tan cercando di portarlo verso casa. Ed eccovi tutti lì mezzi morti. La signora Scott disse che il dottor Tan era rimasto con loro un giorno e una notte prima che lei arrivasse. Ora stava curando tutti gli altri coloni malati. La signora Scott disse che la malattia veniva dalle angurie. Oh, le avrò viste mille volte quelle angurie. Cosa? Disse papà. Chi ha delle angurie? La signora Scott spiegò che uno dei coloni aveva piantato angurie in riva al ruscello e tutti quelli che le avevano mangiate si erano ammalati all'istante. Lei li aveva avvisati, ma niente da fare. Disse: non hanno voluto sentire ragioni e ora stanno pagando. Non mangio angurie da una vita, disse papà. Il giorno dopo papà era di nuovo in piedi. Quello successivo anche Laura si alzò, poi mamma e infine Mary. Erano tutti magri e tremanti, ma potevano provvedere a se stessi, così la signora Scott tornò a casa. Mamma disse che non sapeva come sdebitarsi e la signora Scott disse: a che serve avere dei vicini se non ci si aiuta l'un l'altro? Papà aveva le guance scavate e camminava lentamente. Mamma si sedeva spesso a riposare. Laura e Mary non avevano voglia di giocare. Ogni mattina tutti prendevano quella polvere amara. Nonostante ciò, mamma non aveva perso il suo sorriso amorevole e papà fischiettava allegramente. Guardiamo il lato positivo, disse. Siccome non poteva lavorare, aveva il tempo di fare una sedia a dondolo per mamma. Prese a ruscello dei sottili rami di salice e costruì la sedia in casa. Poteva fermarsi in qualunque momento per mettere altra legna nel fuoco o per aiutare mamma a sollevare il bollitore. Prima fece quattro gambe solide e le fissò insieme con dei pezzi trasversali. Poi tagliò delle strisce sottili di corteccia di salice. Le intrecciò sopra e sotto, avanti e indietro, finché non formarono una seduta. Poi tagliò in due un tronco sottile, prese una delle estremità e l'attaccò a un lato della sedia. Lo incurvò e lo attaccò dall'altro lato. Era lo schienale, alto e curvo, della sedia. Lo fissò saldamente, poi intrecciò le strisce di salice sopra e sotto, avanti e indietro, fino a ricoprire lo schienale stesso. Con l'altra metà del tronco diviso in due fece i braccioli della sedia. Li incurvò dalla parte anteriore verso quella posteriore della sedia e li ricoprì di strisce di salice intrecciate. Alla fine tagliò in due un tronco più grosso e ricurvo. Girò la sedia al contrario e attaccò i pezzi curvi alle gambe per farla dondolare e la sedia era fatta. Allora festeggiarono. Mamma si tolse il grembiule, si sistemò i lisci capelli castani, si mise la spilla d'oro sul colletto, Mary mise la collana di perline a Carrie e papà e Laura poggiarono il cuscino di Mary sulla seduta della sedia e quello di Laura contro lo schienale. Sopra i cuscini, papà stese la coperta del letto piccolo, poi prese mamma per mano, la accompagnò fino alla sedia e le mise la piccola Carrie in braccio. Mamma si accomodò su quella morbida poltrona. Le sue guance erano rosse, aveva le lacrime agli occhi, ma il suo sorriso era meraviglioso. La sedia dondolava dolcemente. Lei disse: oh, Charles, non stavo così comoda da, oh, non so quando. Allora papà prese il violino, suonò e cantò per mamma alla luce del camino. Mamma si dondolava e la piccola Carrie finì per addormentarsi. Mary e Laura sedevano sulla panca ed erano felici. Il giorno dopo, senza dire dove andava, papà uscì con Patty. Mamma si chiedeva dove fosse finito. Quando tornò, aveva un'anguria sulla sella. Riuscì a fatica a portarla in casa. La lasciò cadere a terra e crollò a sua volta. Mi sembrava di non farcela, disse. Peserà almeno 18 chili e io sono debole come una foglia in autunno. Ma Charles, disse mamma, non devi, la signora Scott ha detto. Papà scoppiò in una sonora risata. Ma non ha senso, disse. Questa è una buona anguria perché dovrebbe avere la febbre malarica. Tutti sanno che la febbre malarica viene respirando l'aria della notte. Questa anguria è cresciuta nell'aria della notte, disse mamma. Ah, non ha senso, disse papà. Dammi il coltello per la carne. Mangerei questa anguria pur sapendo che mi darebbe i brividi e la febbre. Ci credo, disse mamma porgendogli il coltello che affondò nell'anguria con un suono delizioso. La buccia verde si aprì. E l'anguria era di un rosso vivo all'interno, punteggiata di semi neri. Il cuore rosso sembrava davvero fresco. Niente era mai stato tanto attraente quanto quell'anguria in una giornata così calda. Mamma non volle assaggiarle, non lasciò che Laura e Mary ne mangiassero nemmeno un boccone, ma papà la mangiò fetta dopo fetta e alla fine disse, sospirando, che avrebbe dato il resto alla mucca. Il giorno dopo ebbe un po' di febbre e mamma disse che era colpa dell'anguria, ma il giorno seguente anche lei ebbe un po' di febbre, così non seppero mai a cosa era dovuta. A quei tempi non sapevano che si trattava di malaria e che erano le zanzare a trasmetterla. Fuoco nel camino. La prateria era cambiata. Ora era di un giallo scuro, quasi marrone, attraversato da strisce rosse di sommaco. Il vento gemeva nell'erba dorata e mormorava tristemente nell'erba bassa. Di notte sembrava di sentire qualcuno che piangeva. Papà disse di nuovo che quella era una splendida terra. Nei grandi boschi da cui venivamo, papà doveva tagliare il fieno, farlo essiccare e metterlo nella stalla per l'inverno. Qui, nella prateria, il sole aveva essiccato l'erba, lì dov'era, e per tutto l'inverno i cavalli e la mucca avrebbero avuto da mangiare. Doveva metterne da parte solo un po' per i giorni di tempesta. Ora aveva rinfrescato e presto papà sarebbe andato in città. Non c'era andato in estate perché Pet e Patty non avrebbero sopportato quel gran caldo. Per arrivare in città in 2 giorni, papà non voleva stare via da casa più dello stretto necessario, avrebbero dovuto tirare il carro per 30 km al giorno. Sistemò la piccola scorta di fieno vicino alla stalla. Tagliò la legna per l'inverno e la legò con una corda contro la casa. Ora doveva solo procurarsi abbastanza carne per il tempo della sua assenza, quindi prese il fucile e andò a caccia. Laura e Mary giocavano fuori nel vento. Quando sentirono risuonare uno sparo nel bosco, in riva al ruscello, seppero che papà aveva trovato la carne. Il vento era fresco ora. E lungo il ruscello stormi di anatre selvatiche si alzavano in volo, tornavano giù, poi si alzavano nuovamente. Si vedevano salire lunghe file di oche selvatiche disposte a forma di V in viaggio verso il profondo sud. Il capo stormo chiamava: Qua! Lungo la fila le oche selvatiche rispondevano una dopo l'altra: Qua! Qua! Qua! Allora lui gridava: Qua! E gli altri: Qua! Qua! Qua! Qua! E il capo volava verso sud con le sue ali robuste e le lunghe file ordinate lo seguivano. Adesso le cime degli alberi che costeggiavano il ruscello erano colorate. Le querce erano rosse, gialle, marroni e verdi. I pioppi, i sicomori e i noci erano di un giallo brillante. Il cielo non era più così splendente, il vento era violento. Quel pomeriggio il vento soffiava forte ed era freddo. Mamma chiamò Mary e Laura in casa, accese il fuoco. E avvicinò la sedia a dondolo, poi si sedette per cullare la piccola Carrie cantando dolcemente. Laura sentì uno scricchiolio nel camino. Mamma smise di cantare. Si piegò in avanti e guardò nel camino, poi si alzò con calma, mise Carrie in braccio a Mary, la fece sedere sulla sedia a dondolo e uscì in fretta. Laura le corse dietro. Il camino aveva preso fuoco! I tronchi di cui era fatto stavano bruciando, il fuoco ruggiva nel vento e si dirigeva verso il tetto impotente. Mamma prese un lungo bastone per colpire il fuoco e i pezzi di legno bruciato caddero tutto intorno a lei. Laura non sapeva cosa fare, afferrò anche lei un bastone, ma mamma le disse di stare indietro. Oh, il fuoco che divampava era terribile, avrebbe potuto bruciare l'intera casa e Laura non poteva fare nulla. Corse in casa, pezzi di legno bruciato e braci cadevano giù per il camino e rotolavano a terra. La casa era piena di fumo. Un grosso legno infuocato rotolò sul pavimento, ai piedi di Mary. Mary era così spaventata che non riusciva a muoversi. Laura aveva troppa paura per riuscire a riflettere. Afferrò lo schienale della pesante sedia a dondolo e tirò con tutte le sue forze. Trascinò via la sedia con sopra Mary e Carrie, poi Afferrò il legno infuocato e lo lanciò dentro al camino proprio nel momento in cui mamma rientrava. Brava Laura, ti sei ricordata che ti ho detto che non bisogna mai lasciare il fuoco sul pavimento? Disse mamma. Prese il secchio dell'acqua e versò in fretta l'acqua sul fuoco del camino. Ne uscirono nuvole di vapore. Poi mamma disse: Ti sei bruciata le mani? Guardò le mani di Laura, ma non erano bruciate perché aveva gettato il bastone in fretta. Laura non pianse, era troppo grande per piangere, solo due lacrime le uscirono dagli occhi e un nodo le si formò in gola, ma quello non era piangere. Nascose il viso contro mamma e si strinse forte a lei, era felice che il fuoco non l'avesse bruciata. Non piangere, Laura, disse mamma accarezzandole i capelli. Hai avuto paura? Sì, disse Laura. Avevo paura che Mary e Carrie si bruciassero. Avevo paura che la casa andasse a fuoco e che saremmo rimasti senza casa. Ho paura anche adesso. Mary riuscì a parlare. Raccontò a mamma di come Laura avesse allontanato la sedia dal fuoco. Laura era così piccola e la sedia così pesante con Mary e Carrie sopra che mamma ne fu sorpresa. Disse che non sapeva come Laura ci fosse riuscita. Sei stata coraggiosa, Laura, disse. Ma Laura aveva avuto proprio tanta paura. Su, su, non è successo niente, bambine, disse mamma. La casa non è bruciata, la gonna di Mary non ha preso fuoco e né lei né Carrie si sono bruciate. Va tutto bene. Quando papà tornò a casa, scoprì cos'era successo. Il vento ruggiva nel condotto di pietra del camino e la casa era fredda, ma papà disse che avrebbe ricostruito il camino con legno verde e argilla fresca e che lo avrebbe intonacato così bene che non avrebbe più preso fuoco. Aveva portato quattro grosse anatre, disse che avrebbe potuto ucciderne centinaia, ma ne bastavano quattro. Disse a mamma: Conserva le piume delle anatre e delle oche che mangiamo e ti farò un letto di piume. Avrebbe potuto prendere un cervo, ma non faceva ancora abbastanza freddo per congelare la carne e conservarla, evitando che andasse a male prima che potessero mangiarla. E aveva trovato un posto dove c'era uno stormo di tacchini selvatici. I nostri tacchini per Natale e per il giorno del ringraziamento, disse. Belli grassi, ne prenderò quando sarà il momento. Fischiettando, papà si mise a mescolare argille e a tagliare legna verde per ricostruire il condotto del camino, mentre mamma puliva le anatre. Poi il fuoco scoppiettò allegramente. Una grossa anatra fu arrostita e il pane di mais cotto e tutto era di nuovo a posto. Dopo cena, papà disse che pensava di andare in città l'indomani mattina presto. Meglio andare e togliersi il pensiero, disse. Sì, Charles, è meglio che tu vada, disse mamma. Possiamo cavarcela anche senza, disse papà. Non c'è bisogno di correre continuamente in città per ogni piccola cosa. Ho fumato tabacco migliore di quella roba che Scott coltivava nell'Indiana, ma va bene così. Ne pianterò un po' l'estate prossima e glielo restituirò. Come vorrei non aver preso in prestito quei chiodi da Edwards. Ma l'hai fatto, Charles, rispose mamma. Per quanto riguarda il tabacco, a nessuno di noi due piace prendere le cose in prestito e poi abbiamo bisogno di chinino e sto facendo attenzione con la farina di mais, ma non ce n'è quasi più e lo stesso vale per lo zucchero. Possiamo trovare un'arnia, ma che io sappia, la farina di mais non cresce sugli alberi e non avremo mais fino al prossimo anno. E un po' di lardo non sarebbe male. Dopo tutta questa selvaggina. E Charles, vorrei scrivere ai nostri amici del Wisconsin. Se spedisci una lettera ora, possono risponderci durante l'inverno e avremo loro notizie in primavera. Sì, hai ragione, Caroline, come sempre, disse papà. Poi si rivolse a Mary e Laura e disse che era ora di andare a dormire. Se doveva partire di primo mattino, avrebbe fatto meglio coricarsi presto quella sera. Si tolse gli stivali, mentre Mary e Laura si mettevano in camicia da notte. Ma quando furono a letto, prese il violino, delicatamente cominciò a suonare e delicatamente cantò. L'alloro è verde, così come il tè. Che tristezza, amore, allontanarmi da te. Mamma si voltò verso di lui e sorrise. Fa attenzione durante il viaggio, Charles, e non preoccuparti per noi. Andrà tutto bene.